La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. Antrioca, una strega, suo malgrado. Una fiaba scritta e messa in voce da Gaetano Marino. C'era una volta, al tempo delle Janas, una strega che abitava in un vecchio nuraghe posto vicino al villaggio di Onne, nell'isola di Hyknos. Lo avevano costruito pietra su pietra, i giganti di roccia viva, ridotti in schiavitù da un maleficio. Il nuraghe stava all'interno dell'isola, in cima ad una grande foresta. La padrona di quel nuraghe si chiamava Stria, ma in verità non era nata strega. Ella si chiamava Antrioca e apparteneva alla stirpe delle Janas. Fu la settima figlia di una famiglia di fatine benestanti. C'era una legge, però, assai temuta dalle Janas, che riguardava proprio la settima figlia. Antrioca stava per raggiungere le 12 primavere e sin da qualche tempo però sentiva che le attenzioni e gli abbracci dei genitori e delle sorelle non erano più quelli di sempre, finché il giorno del suo 12° compleanno entrò nella sua casa l'anziana nonna Mundicca, che portava con sé un fagottino pieno di viveri. La donna appoggiò il viatico sulla tavola, guardando negli occhi la nipote Antrioca. Dopo un silenzio breve, nonna Mundicca disse quel che Antrioca non avrebbe mai voluto sentire. Antrioca, tu sei nata settima figlia in questa famiglia e oggi è il tuo 12° compleanno. Antrioca ascoltava con un mesto sorriso. Tu sai cosa vuol dire? Domandò nonna Mundicca. Nonna Mundicca, io non so nulla, tranne che oggi è un bel giorno per la mia vita. La settima figlia delle Janas, al compimento della 12° primavera, è destinata ad essere una strega, disse nonna Mundicca. Devi andartene, Antrioca. Non puoi più stare con noi. Antrioca quasi si sentì il cuore svanire. Le gambe non la reggevano e fu costretta a sedersi, tenendo lo sguardo fisso sul tavolo. Questo vuole la nostra legge, la nostra natura, continuò nonna Mundicca. Andrai nei boschi, dove imparerai ad essere strega, e ti chiamerai Stria. Antrioca non pianse. Aveva capito. Si alzò, strappò le sue piccole ali, oramai inutili, si avvicinò alla tavola, prese il fagotto con i viveri, aprì le braccia e si diresse verso nonna Mundicca, ma la nonna si scansò. No, Antrioca, non puoi abbracciarmi. Se dovessi sfiorare il tuo corpo, resterei con il tuo odore di strega, costringendomi ad andar via. E qui hanno ancora bisogno di me. Antrioca serrò forte le labbra, fece un grande respiro e uscì dalla sua casa. Fuori era deserto. Il vento spazzava via la polvere. Qualche cespuglio secco rotolava via insieme ai brutti pensieri. E se ne andò, Antrioca, portando con sé il suo nuovo nome di Stria. Così doveva essere. Così volle la loro legge. E così andò. Nessuno avrebbe più chiesto di lei. E Stria fu strega assai capace e potente. Il nuraghe fu la sua fortezza e con il tempo accumulò un'immensa ricchezza. Molti uomini ricchi si recavano da lei per conoscere presagi, ottenere filtri d'amore, intrugli malefici contro i nemici. Ed erano infallibili, soprattutto costavano assai. Tanto divenne ricca Stria che non sapeva più dove mettere i suoi tesori. Così che la sua cupidigia e la sua vanità tracotante non ebbero più limiti. Giunse al punto di convincersi d'essere lei la più potente delle streghe di Sardegna. Finché accadde quel che poi tutti seppero. Quella notte Stria, come al solito, s'era trasformata, grazie al suo filtro magico, in una volpe e se ne andò a caccia. Quando tornò al suo nuraghe, la volpe Stria bevve l'antidoto e tornò strega. Dopo aver cenato, vide che dai tizzoni del camino, da sotto, venivano fuori i soliti demoni, ladruncoli e affamati. Quei demoni venivano fuori per divorare gli avanzi della cena di Stria. Lei li conosceva da sempre e li lasciava fare perché gli pulivano la cucina. Ma quella notte, non riuscì proprio a sopportarli. Afferrò lo spiedo ancora caldo e lo scagliò contro quei demoni. Molti rimasero infilzati, dissolvendosi in una nuvola verde di zolfo, e Stria gridò: «Schifosi demoni! Ladri! Servi immondi di Ammuntadore, reietti del mondo dei vivi! Voi che succhiate il male dal sonno degli uomini, meschini e pusillanimi, ingannatori come il vostro padrone Ammuntadore! Ebbene, io sfido Ammuntadore, lo sfido a caccia. Domani notte io e lui ci batteremo. Vedremo chi prenderà le prede più succulente e grandi. Dite dunque al vostro Ammuntadore che domani notte lo aspetterò nel bosco, sotto la grande quercia. Sparite!» L'indomani, giunta la sera, Stria bevve la solita pozione, trasformandosi in volpe. Poi corse fuori, verso la grande quercia, ad aspettare il padrone dei demoni, Ammuntadore. Trascorse il tempo, ma di Ammuntadore non vide traccia. Come già sapevo, pensò la volpe Stria, quel vigliacco non verrà, vile come tutta la sua stirpe. Nell'attesa comparve timido uno scoiattolo. Era talmente piccolo che la volpe Stria nemmeno lo catturò. Ma poi si sentì la voce dell'animaletto. «È Perdonate, signora. Voi siete una volpe, è vero? Sono una volpe, sì, rispose la volpe stria. Oh, buonasera, signora volpe. Vi chiedo scusa per il mio disturbo. So che voi siete saggia ed esperta e che godete di gran fama. Sì, sì, sì, godo di gran fama. Mangia ghiande. Ma tu che vuoi? Io? Ah, ecco, scusatemi, signora volpe, è che non capita tutti i giorni di incontrarvi. Il fatto è che io sono tanto, tanto emozionato che non so come chiedervelo. Sbrigati! Mangia funghi! Aspetto qualcuno! Che vuoi sapere? Certamente, ecco, volevo chiedervi, gentile signora volpe, come va? Come state? Come ve la passate in questo periodo di carestia? La volpe stria squadrò lo scoiattolo. Non sapeva se valesse la pena rispondergli, ma poi disse: E tu, misera bestia, morto di fame, ridicolo mangia nocciole, come osi domandarmi come va, come sto e come me la passo? A me, che sono l'essere più intelligente e astuto che ci sia al mondo. Lo scoiattolo stava per rispondere quando si sentì da lontano l'abbaiare forte e inconfondibile del cane pastore Onne, un cane assai temuto per la sua forza e per il suo fiuto, che correva proprio verso di loro, seguito dalle grida del suo padrone. Appena la volpe stria sentì il cane Onne, sgranò gli occhi, perché sapeva di non poter tornare ad essere una strega, dato che l'antidoto stava di là nel suo nuraghe, sulla dispensa della cucina, e non essendo nemmeno in grado di arrampicarsi sull'albero, la volpe stria dovette rifugiarsi nel mezzo di un cespuglio qualunque, sapendo che il cane sarebbe stato più veloce di lei. Lo scoiattolo invece salì agile e svelto svelto sulla grande quercia, sino in cima, dove i rami e le foglie lo nascosero. Subito dopo giunse il cacciatore, trascinato dal cane Onne, e non gli fu difficile stanare la volpe stria dal cespuglio, così che la preda fu chiusa in una gabbia e portata via. Lo scoiattolo, che da lassù della grande quercia vedeva ogni cosa, gridò alla volpe stria: «Ciao, signora volpe! O devo chiamarti signora stria? Sai chi sono io, vero? Beh, debbo ammettere che avevi ragione ieri notte, sai, quando dicesti che noi demoni siamo quel che gli uomini ci vedono, ingannatori. Eppure, con tutta la tua intelligenza e astuzia, ora io vedo che sei tu, ad essere stata ingannata e presa in trappola, e forse presto la tua pelliccia farà caldo, eh sì, a qualcuno quest'inverno. Ciao, ciao!» Nel cammino di ritorno al villaggio, la volpe stria, chiusa in una gabbia, la trava nel suo pianto acuto, accadde che il cane Onne la chiamasse a voce alta: «Volpe stria! Volpe stria! Non piangere! Non piangere!» La volpe stria ammutolì e riconobbe subito quella voce. «No, nonna Mundica! Siete voi, nonna Mundica!» Sono io! Non aver paura! Non aver paura, sono qui per te!» Il cacciatore, sentendo quelle voci, si impaurì, abbandonò rapido la gabbia e fuggì via, terrorizzato. La gabbia cadde e s'aprì. Subito venne fuori volpe stria, Nonna Mundica però non disse nulla e se ne tornò al suo villaggio delle Domus Deianas, tenendo per sé quel che fece per sua nipote. La volpe stria, rientrata nel suo nuraghe, bevve subito l'antidoto per tornare strega. Ad allora non volle più essere strega cattiva. Donò tutte le sue ricchezze ai poveri pastori. Sciolse dal maleficio i giganti di roccia viva e sfruttò la sua esperienza per trasformare i suoi filtri a fin di bene, soprattutto per quegli uomini disperati che credevano di non aver più speranza, ingabbiati dagli inganni della superstizione, nutrimento dei demoni. Stria restituì così a tutti la gioia di vivere, perché il destino può darti tutto quel che desideri e l'unico prezzo che chiede è il tuo lavoro. Avete ascoltato Parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net